grazie. Allora, buonasera, cominciamo. Scusate il ritardo, ma l'udienza è finita molto tardi anche oggi, quindi testimoni e altri hanno messo un po', impiegato un po' di tempo per raggiungere il centro di Roma, appunto dall'aula bunker di Re Bibbia. L'incontro appunto segue l'udienza di oggi, è stata particolarmente importante e intensa. Oggi hanno testimoniato tre persone, due sono qui accanto a me, Pablo Berchenko e Mireia Garcia, perdonatemi per la pronuncia, ma io non parlo assolutamente lo spagnolo. E poi c'era un terzo che era Jorge Barudi. Berchenko e Barudi hanno testimoniato per il sequestro e l'omicidio di Omar Venturelli. Qui accanto a me c'è Maria Paz Venturelli, che è la figlia, mentre Mireia Garcia per la causa che riguardava il sequestro e l'omicidio di Juan José Montillo Murúa. Venturelli e Murúa erano due cittadini cileni di origine italiana che sono scomparsi nell'ambito del golpe del 11 settembre 73 di Pinochet, l'assalto alla moneta e così via. Scusate la sintesi, ma parlo molto, vado subito al sodo, perché è stata anche importante questa udienza, perché hanno partecipato, e di questo sono particolarmente contento, lo dico subito, gli studenti di un liceo di Maccarese, il liceo Leonardo da Vinci, ecco, che partecipano a un progetto realizzato da Susanna Nanni, qui accanto a me, e che adesso vi dirà di che cosa si tratta, e cinque di questi ragazzi interverranno, ci racconteranno la loro esperienza e appunto a loro volta di che cosa si tratta, di che cosa si stanno occupando. Dopodiché passeremo la parola appunto ai testimoni e a Maria Paz, e loro ci diranno altro. Si sente? Sì, dunque sarò brevissima per poter lasciare il testimone ai ragazzi. Oggi, diciamo, il termine letterale. Devono correre a prendere un treno, per questo abbiamo devono correre, vengono da fuori, per cui molto meritevoli anche in questo senso e non solo. Dunque, diciamo che l'ingresso oggi in aula bunker del Re Bibbia di 123 ragazzi più 9 accompagnatori e si inserisce all'interno di un progetto molto più ampio sulla memoria, la legalità e i diritti umani che in realtà il nostro liceo Leonardo da Vinci sta portando avanti da diversi anni, e per cui siamo passati da uno studio approfondito della Shoah che insomma negli anni precedenti, e quest'anno ci siamo allargati fino a toccare tematiche come la questione balcanica, il genocidio degli armeni, il 68, l'affare Moro, insomma, no, ampliandolo notevolmente. In particolare questa parte del progetto su dittature in America Latina e desaparecidos di ieri e di oggi si inserisce, diciamo, coinvolge 13 classi, sono 280 studenti dei quarti e dei quinti dei vari indirizzi, dell'indirizzo classico, scientifico e linguistico, e ci tengo a dirlo perché questo dà anche la dimensione dell'interdisciplinarietà che noi stiamo dando al progetto, no? Per cui lo affrontiamo non solo dal punto di vista storico, ma anche letterario, filosofico e anche scientifico, insomma, sotto vari aspetti. Diciamo così molto brevemente che noi stiamo cercando di accompagnare questi ragazzi in un percorso di presa di consapevolezza di che cosa sono i diritti umani, la difesa dei diritti umani e il valore della democrazia, no? Come questo si acquista o si può perdere giorno per giorno, cercando in qualche modo di coniugare il sapere con diciamo le competenze del sapere con quelle della vita. E per cui ci siamo proposti alcuni obiettivi. Cerco di essere molto molto sintetica e appunto vado subito, diciamo, al centro del mio discorso, la memoria. Abbiamo lavorato molto sul concetto di memoria cercando di renderla quanto più dinamica possibile. Per cui una memoria che non sia come un contenitore vuoto da riempire di informazioni affinché certi eventi del passato non tornino mai più, che pure naturalmente è insomma un processo molto importante, però fare un passo avanti, no? Renderla dinamica questa memoria e capire che certi eventi del passato di fatto non solo sono tornati, ma ci riguardano anche geograficamente in prima persona, perché stiamo lavorando anche su tematiche relative ai desaparecidos nel bacino del Mediterraneo, no? Per cui da che cosa scappano, come mai, dove, perché, eccetera. E di fatto il Condor ancora vola, no? E il Mediterraneo è diventato in qualche modo come il Rio della Plata, un cimitero di desaparecidos, di corpi senza nomi, senza identità, con tutte le problematiche connesse, no? Per cui anche la mancata elaborazione del lutto da parte dei familiari di queste vittime e tutto questo. Per cui diciamo che uno dei nostri principali obiettivi è quello di lavorare su questo concetto di memoria, cercando di, alla luce del fenomeno migratorio attuale, no? Cercando anche di stare attenti alla terminologia, perché ci siamo accorti che non solo i giovani, ma anche noi adulti molto spesso confondiamo termini come immigrato, esule, richiedente asilo politico, eccetera. Per cui fare anche, no, attenzione all'uso delle parole, perché poi l'uso delle parole significa anche, diciamo, una visione del mondo, no? E di ciò che ci circonda. E poi altro obiettivo sicuramente è quello di una partecipazione attiva alla lotta per la difesa dei diritti umani e in una condivisione intergenerazionale, nel senso che poi questi ragazzi tornano a casa, parlano con i loro genitori, parlano con i vicini di casa. È molto bello questo scambio, perché ci rendiamo conto che molti di loro, oggi ci sono anche dei genitori di alcuni di questi studenti, ad esempio sapevano molto tutto sul Cile e nulla sull'Argentina, no? Per cui anche riflettere come mai in Italia o in Europa sono arrivate determinate informazioni e non altre, no? La solidarietà come si è manifestata in modo diverso. Per cui questo scambio intergenerazionale in realtà si manifesta anche perché loro studiano storie di persone, di testimoni che hanno di fatto l'età dei loro genitori, però quando loro erano giovani, come quando questi testimoni erano giovani come loro, per cui si annulla in qualche modo, no, alla distanza generazionale. E questo, insomma, da qui sono scaturite un'altra serie di riflessioni molto interessanti. E condivisione dell'esperienza storica: noi siamo partiti in particolare dallo studio della storia della dittatura argentina per allargarci al contesto internazionale, prima latinoamericano e poi della guerra fredda, per capire un po' questo concetto di nemico interno, e siamo arrivati fino alla responsabilità delle democrazie, a volte dobbiamo usare le virgolette, delle democrazie occidentali, no? Allora come oggi. E cerco di stringere dicendo che in realtà cerchiamo anche di fare un lavoro un po' più mirato, un po' più pragmatico, perché vorremmo in qualche modo contribuire alla ricerca dei figli dei desaparecidos in Italia, per quello che dicevo prima, no? Cioè se ne parla con genitori, vicini, zii, eccetera, per cui diciamo la storia si allarga e si condividere. E poi in termini, e qui chiudo, in termini proprio più generali, cercare di contrastare in qualche modo questo modello che viene imposto dagli spazi egemonici di potere. Sto pensando ai mass media, sto pensando a programmi che questi ragazzi vedono quotidianamente o sono costretti, no, a vedere, perché sono gli unici che vengono proposti come reality show, eccetera, in cui il modello è quello dell'elimino te per emergere io, no? Che è un modello che noi cerchiamo di contrastare anche con lo studio dei diritti umani, cercando invece di puntare piuttosto l'attenzione sulla solidarietà, no? Sul concetto di solidarietà, che poi è quella stessa solidarietà nei confronti del diverso, nei confronti dell'altro, nei confronti dell'emarginato, in qualsiasi sua accezione, che le dittature latinoamericane hanno tanto contrastato, no? Fino ad arrivare alla sparizione forzata delle persone, alla tortura e alla morte. E chiudo, visto che c'è un'ora della sua presenza Francesco Caporale, ma non lo voglio coinvolgere al tavolo, però chiudo dicendo che un'ultima riflessione molto molto interessante è scaturita dagli stessi ragazzi sul concetto di giustizia, perché tutti sono rimasti molto colpiti dalla volontà che hanno i familiari delle vittime argentine, cilene, insomma di tutti questi paesi coinvolti, in una giustizia che sia pubblicamente riconosciuta, no? Una giustizia che è molto lontano, è all'opposto esatto di quella giustizia privata che invece in Italia sembra imperare, diciamo, in ogni sua forma, no? Per cui è una delle cose che li ha colpiti di più. Per cui, diciamo, Francesco, una giustizia senza confini, no? Ma senza confini né territoriali e né temporali, no? E questo allora è una cosa che li ha colpiti in modo particolare. E per cui io direi, siccome appunto i ragazzi devono raggiungere luoghi abbastanza lontani con treni, mezzi, eccetera, se fosse possibile lasciamo la parola a loro per capire come loro hanno recepito questo, ci tengo a dirlo, non insegnamento dei diritti umani ma condivisione dei diritti umani. Non abbiamo mai fatto lezione, questo anche i miei colleghi, che insomma vorrei ringraziare, senza il loro aiuto non ci sarei mai riuscita a portare avanti un progetto su 13 classi. Abbiamo sempre cercato di fare delle lezioni non tanto frontali quanto proprio di condivisione, delle lezioni dibattito in cui noi non siamo gli educatori che parlano, spiegano, e loro gli educandi che ascoltano, ma piuttosto io mi sono ritrovata in molte occasioni a parlare e imparare da loro. Mentre condividevo ero io che imparavo da loro e loro che mi insegnavano molto, no? Per cui in questo senso si è trattato di una vera e propria condivisione. E per cui insomma diamo modo a loro anche di esprimersi e di condividere tutti insieme le loro riflessioni. Va bene? Come ci organizziamo? Allora. E do la parola ad Alessandro Cogo, che tra l'altro è anche rappresentante degli studenti d'istituto. Facciamo così. Buonasera a tutti, sono Alessandro Cogo dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Fiumicino. Una scuola speciale perché è molto attiva nell'ambito della memoria, memoria che abbiamo imparato essere uno dei valori più importanti che la storia e la società possano darci. Infatti attraverso numerosi progetti portati avanti dal mio istituto abbiamo incontrato esperienze di eventi storici diversi, come per esempio possono essere la Shoah, la questione armena e dell'ex Jugoslavia. Ci hanno insegnato a comprendere e ad analizzare l'influenza e soprattutto la centralità del passato sul piano politico, economico e sociale. Quest'anno, tra i vari progetti a cui ho partecipato, abbiamo avuto modo di approfondire la questione dei desaparecidos, un tema che è stato affrontato secondo chiavi di lettura diverse, una chiave di lettura più storica, anche grazie a numerose lezioni, anche con il sostegno di materiale multimediale, e un punto di vista invece più giuridico, come può essere stato l'incontro con Arturo Salerni, e un punto di vista invece più giornalistico, come è stato invece l'incontro con Emilio Trudi. Quest'ultimo in particolare ci ha dato una dimostrazione concreta della possibile attualizzazione della memoria, il ruolo che la memoria ha oggi, in particolare facendo un collegamento tra desaparecidos argentini, quelli del passato, e desaparecidos di oggi, gli immigrati. E, infatti fino a 1 o 2 mesi fa, quando la mattina mi preparavo per andare a scuola, accendevo la televisione e ascoltavo il telegiornale che quasi quotidianamente annunciava la morte di centinaia e centinaia di persone la cui unica colpa era stata quella di affidarsi a individui interessati unicamente al guadagno per attraversare inoltre un mare che fino a qualche secolo fa i popoli li univa, un mare che oggi giorno può essere paragonato a un secondo Rio della Plata. E io personalmente, nella mia esperienza quinquennale da studente, ho conosciuto e parlato di numerosi eventi storici e la memoria si è presentata nella sua caratteristica storica, presentandosi anche con una memoria militante, sotto forma anche di centri clandestini di detenzione, foibe, campi di concentramento, gulag o addirittura interi deserti. Con la scuola abbiamo parlato di Estela De Carlotto, Enrico Calamai, Gino Bartali, Salvo D'Acquisto e Norma Cossetto. Domani parleremo di Aldo Moro e spero, in qualità di rappresentante di istituto e di studente, di avere l'onore di poter incontrare nella nostra prossima assemblea Walter Calamita. ecco che in questo senso riscopriamo il valore della memoria attraverso tragedie del passato e tragedie che stanno avvenendo, in cui noi, inteso come paese e come civiltà, abbiamo l'obbligo di intervenire, l'obbligo morale. Un giorno Bernardo di Chartres disse: siamo giganti che camminano su, siamo nani che camminano sulle spalle dei giganti. Le spalle dei giganti sono il nostro passato, che ci aiutano a capire meglio il presente e costruire in maniera più responsabile e consapevole il nostro futuro, perché noi giovani siamo il futuro del nostro paese e la memoria può renderci cittadini più consapevoli, più responsabili e quindi più liberi. In questi giorni si parla spesso di un grande intellettuale scomparso appunto pochi giorni fa, Umberto Eco, e ho avuto modo di vedere video e leggere molti link che lo riguardano, e tra questi c'è un video che mi ha colpito particolarmente, e per questo volevo concludere questa mia brevissima riflessione citando appunto una frase di Umberto Eco che diceva che la memoria è l'anima. Allora chiedo a Sara della sala di venire a raccontarci un po' che cosa è stato per lei, e vi farà una sorpresa, perché è anche scrittrice Sara. Buonasera a tutti quanti, e vorrei iniziare il mio intervento con recitando dei brevi versi, simbolo appunto di questa lotta, della vostra lotta e della nostra desiderio di condividerla, e sono di Pablo Neruda. Ti dico en las orejas, no sufras, ya llega el día, ven, ven conmigo, ven con todos, los que a ti te parecen lo más sencillos, ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé, yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra, no sufras, porque ganaremos, ganaremos nosotros, lo más sencillos, ganaremos aunque tú no lo creas, ganaremos. Volevo ringraziarvi a nome mio e di tutto il liceo Leonardo da Vinci. In primo luogo la mia insegnante, sono Anna Nanni, che ci ha dato l'opportunità, che ci ha guidato con passione e dedizione nel conoscere questo brutale massacro e commesso contro un'intera generazione e soprattutto i nostri coetanei. E poi vorrei ringraziare tutti voi qui presenti oggi, che portate una testimonianza ancora viva del dolore troppo spesso passato sotto l'indifferenza e l'ignoranza della gente. Vi ringrazio inoltre per il coraggio e per la forza d'animo che continua a dimostrarli nella vostra lotta, per fare in modo che la verità, per quanto crudele, venga alla luce. Spero con tutto il cuore che il vostro sforzo perché la giustizia riconosca il diritto a punire in modo pubblico i colpevoli possa ottenere l'appoggio di sempre più persone come facciamo noi qui oggi. L'aver iniziato a studiare questi eventi storici mi ha permesso di comprendere gli enormi crimini commessi nei confronti dell'umanità, ma che comunque continuano tutt'oggi a essere perpetrati al danno dei più deboli e troppo poveri per difendersi. Provo molta rabbia nel pensare soprattutto che gran parte del mondo viva nell'indifferenza, e spero che la scuola ci aiuti nel comprendere più profondamente e più consapevolmente la storia contemporanea, perché noi ragazzi di oggi purtroppo siamo sottoposti a stereotipi fittizi, mentre avremo bisogno di persone come voi che guidano appunto che risvegliano la nostra coscienza e svegliano soprattutto gli ideali e i valori ormai persi, per cui appunto un'intera generazione pensante è stata massacrata, e in modo tale per rendere appunto la loro lotta ancora più viva. E in più, diciamo, vorrei aggiungere che noi giovani spesso ci sentiamo schiacciati, ma allo stesso tempo incapaci di reagire di fronte alle strutture imposte dal sistema, e non riusciamo a incanalare in modo corretto la nostra voglia di ribellione, e così finiamo spesso con il disinteressarci completamente della realtà che ci circonda, però in cui cresciamo. Comprendo quanto il vostro lavoro sia duro e difficile, ma le emozioni che state facendo nascere in me e in molti altri giovani alimentano il mio desiderio di conoscenza e la mia voglia di andare avanti e appunto di incanalare il mio spirito di giustizia verso il mio spirito di ribellione verso una maggiore giustizia e rispetto di tutte le persone. Infine vorrei concludere questo discorso con una poesia che ho fatto io entrando in contatto con le vostre storie. Ce la faccio. Ce la fai. Stanno qui per ascoltarti. Onore. Corri, scappa, fuggi lontano, buio che ti avvolge, luce che ti abbaglia, la paura interna ti logora, soli, incompresi, in un mondo nostro, in un mondo di simili. Appare un miraggio, forse troppo lontano, quasi impercettibile ad occhio umano. La nostra continua ricerca, la dedizione, l'impegno, come piume volteggiano, alla ricerca di un porto tranquillo. I nostri spiriti bui, appassiti, eccoli innalzarsi. Riemergono dall'oscurità, come lucciole nel nero della notte. Eccoli disperdersi, in un'aura celestiale, catena portante e fiera. Unitamente procedono, dissolvendo, squarciando veli, profondi e tentatori. Il temporale, il burrone, la paura mutano da pericoli a compagni, amici fedeli, consapevolezza che il bene non esiste senza il male, che l'ignoranza trema sotto la ragione, la natura mutevole ti tramuta in essere mutevole e noi, or dunque, non più in un mondo nostro, ma in un mondo che ci ha reso suoi, non più nelle tenebre vaganti, ma nella pura luce della verità. Grazie Sara per il tuo intervento, le tue parole che come quelle di Alessandro insomma hanno colpito molto tutti noi e gli ospiti. E darei la parola a Rebecca Solimeno. Per me è un onore trovarmi qui oggi. Ho passato questa settimana provando a scrivere qualcosa, ma non sono riuscita a trovare le parole adatte. Prima di tutto volevo ringraziare voi, che oggi siete qui a testimoniare. In secondo luogo volevo ringraziare la nostra scuola, che è una delle poche scuole che si occupa di diritti umani e della Shoah. Infine volevo ringraziare la professoressa Nanni. Senza di lei oggi non saremmo qui, e a mio parere, senza di lei non avremmo conosciuto parte di questa storia. Perché dico parte? Perché la professoressa Nanni ci ha introdotto in questo mondo che pochi conoscevano, ma poi è toccato a noi esplorare più a fondo questa storia. Io parlo per me, ma credo anche per altri. Se non fosse stato per la professoressa, io non avrei saputo tutto ciò. Molte persone pensano che solo perché una certa cosa sia accaduta molto tempo fa, vuol dire che non ci interessi più. È storia, è passato, e il passato non ci riguarda. Però le persone sbagliano. Questa è anche la nostra storia. Non l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle come è accaduto a voi, ma fa parte di noi. Tutto ciò che accade nel mondo fa parte della storia dell'umanità. E poi è proprio questo che si parla, dei diritti degli uomini. E questa storia riguarda noi tuttora, perché stanno accadendo gli stessi fatti in maniera diversa in tutto il mondo. Non so cosa dire, cosa mi ha colpito di più. Posso affermare che non sono state delle semplici lezioni di storia, di filosofia o di scienze. Sono state delle lezioni che mi hanno aperto gli occhi, ho iniziato a vedere il mondo in un'altra prospettiva. Ho iniziato ad amare questa storia, la sentivo parte di me e ho chiesto alla professoressa Nanni se poteva approfondire in qualche modo. Volevo conoscere tutti i dettagli delle dittature dell'America Latina, di cosa accadde veramente in quegli anni ai ragazzi della mia età e a degli adulti. Ho iniziato a leggere libri, vedere film, ma sentivo che non mi bastava. La cosa che mi preoccupava prima di venire qui era il fatto di non sentirmi abbastanza sicura sulle cose che sapevo o meno. Ho letto libri, visto film, fatto ricerche, studiato ciò che è accaduto in America Latina, ma mi sentivo così insicura sulle cose che sapevo. Mi è piaciuta molto questa iniziativa della nostra scuola di far venire Trudy e Salerni per farli parlare con noi, così come sono stata felice di sapere che vedremo Caporale a marzo. Perché alla fine non basta fare ricerche, noi ragazzi dobbiamo avere una voce sulla quale fare riferimento, una fonte diretta che ci permetta di approfondire questi concetti. Per noi sentire queste storie e non poter fare nulla è davvero frustrante. Ci sentiamo impotenti perché quando ci domandano cose come cosa fareste voi per cambiare tutto ciò, oppure cosa fareste per portare avanti il concetto di memoria attiva, io sinceramente non so cosa rispondere a queste domande, per fortuna so cosa fare. Vorrei poter fare qualcosa quando sento frasi come non mi importa della Shoah o non mi importa dei diritti umani, ma io come singolo cosa posso fare? Il pensiero degli altri non può essere condizionato. La triste verità è che molte persone non si interessano di ciò. Le persone non è che si annoiano a sentire queste cose, non le vogliono sentire. Hanno paura di scoprire il vero mondo dove vivono e hanno paura di dover fare qualcosa per cambiarlo. Vi ho sempre ammirato perché voi avevate qualcosa per cui combattere, una motivazione reale. Io adesso mi guardo intorno e vedo popoli che fanno guerra tra di loro per il potere, che sia politico o economico. Voi lottavate per la salvezza, per la famiglia, per uno stato migliore, lottavate per aiutare gli altri e questo per me vi fa eroi. Non il tipo di eroe con i superpoteri, ma quelli che cercano di fare il meglio per gli altri, non curandosi di ciò che potrebbe accadere a loro stessi. Sono sempre rimasta stupita dal vostro concetto di giustizia, non si è mai parlato di vendetta. Anche su questo molte persone non la penserebbero così, ma spero veramente che voi riuscirete ad ottenere giustizia per ciò che è accaduto. Meritate di avere questa soddisfazione, dato che è un bagaglio che vi porterete dietro per tutta la vita e che a volte peserà più del solito. Allora do la parola a Sabrina Guglielman. Sì, allora Sabrina e Riccardo, insieme. Sì. Sì, sì, esatto. Allora, innanzitutto buonasera, sono Riccardo Coppola, che come Sabrina Guglielman è uno studente del quinto C del Leonardo da Vinci, e volevamo appunto offrire il nostro punto di vista, secondo un breve resoconto su ciò che abbiamo tratto da quello che è stata una vera e propria esperienza di vita, il che va ben oltre uno scambio, l'acquisizione di informazioni, seppur siano vicende storiche. Infatti, alla luce soprattutto di ciò che è stata la nostra esperienza oggi, possiamo dire che è stata una, per l'appunto, un'esperienza di vita, un'esperienza totale, che per la quale vorrei appunto cogliere l'occasione per ringraziare chi ci ha coinvolto, sia i professori e i vari organizzatori di questo percorso, che ha una portata dal punto di vista umano enorme in noi. E come punto di partenza, per proprio dimostrare l'importanza di questo percorso, vorremmo soffermarci sul concetto chiave, ossia la memoria, che come ha anticipato professoressa Nanni è un qualcosa che è ben diverso da un'acquisizione passiva di informazioni, ma in generale attivo e in continua evoluzione. Perdonatevi prima, dovrei ringraziare soprattutto voi testimoni, perché ci avete, per quello che ci avete dimostrato, posso dire che avete semplicemente che portato in alto la bandiera del valore di umanità, un concetto che in tutta questa vicenda è stato totalmente strano, perciò una cosa che vi fa onore, e per noi che giovani, appunto, generazione pensante, quella che è stata cancellata tragicamente nel passato, nelle queste vicende, è tanto davvero. Quindi saluto la Sabrina. Allora, anch'io come Riccardo vorrei intanto ringraziare tutti coloro che stamattina ci hanno permesso di prendere parte a questa esperienza che per noi è fondamentale, non solo perché inserisce nell'ambito del progetto che stiamo affrontando, ma proprio fondamentale per la nostra formazione e per la formazione delle nostre coscienze. E vorrei riprendere il concetto di memoria, che per noi rappresenta una presa di coscienza, soprattutto da parte dei più giovani come noi, che cerchiamo di tramutare la custodia del passato in un progetto futuro in cui tutti noi prendiamo parte, come stiamo prendendo parte adesso con questi discorsi, questo incontro, o come abbiamo fatto ad esempio questa mattina, o come la nostra scuola sta facendo da tantissimi anni, come ad esempio attraverso tutti i progetti che ha citato prima il mio compagno Alessandro, e che quindi ci rendono partecipe di una piccola realtà che noi stiamo cercando di espandere, come ha detto anche la professoressa Nanni, comunicando le nostre impressioni anche ai nostri familiari, per cercare di rendere loro partecipi di questa esperienza di cui siamo divenuti parte, ormai fa parte di noi questo progetto. E in particolare vorrei riprendere anche il discorso della professoressa riguardo i desaparecidos di oggi. Il Mar Mediterraneo è veramente diventato un reale cimitero. E niente. Niente, sì. Il Mar Mediterraneo è diventato appunto un cimitero ed è triste vedere come a volte, nonostante tutti questi sforzi, il passato si ripeta ancora, anche se sotto tante sfaccettature diverse, però si ripresenti sempre nella stessa forma di odio per i nostri simili, per quelli che sono esseri umani proprio come noi. E poi è proprio vero che, come appunto ha detto la professoressa Nanni, non ci sono né limiti spaziali né limiti temporali, perché penso che a tutti noi studenti in particolare sia venuto in mente, insomma, se fossimo stati noi al loro posto. Dopo tutto, molti di loro avevano la nostra stessa età, erano ragazzi come noi che appunto andavano ad insegnare a persone più povere che purtroppo non avevano la possibilità di studiare e appunto insegnare a leggere, a scrivere, e quindi erano appunto la generazione pensante, come ha detto Riccardo. E per questo il nostro obiettivo fondamentale è che tutto questo non sia poi qualcosa che rimanga chiuso in un particolare momento, ma che si espanda a livello anche nazionale, internazionale, attraverso i nostri sforzi guidati dalla nostra scuola, dai nostri professori e dai nostri familiari. E per concludere abbiamo, diciamo, preparato omaggio soprattutto alle vittime e a coloro che hanno vissuto questa esperienza in prima persona. Nunca más, para los que no han conocido el significado de la palabra justicia. Nunca más, para toda la sangre hermana demarrada. Nunca más, para plantear un futuro en el que se tome conciencia de la humanidad. Y para que nunca más se repita este trágico pasado. Gracias. io non vorrei parlare adesso perché davvero grazie. E adesso infatti passerei immediatamente la parola. Brevemente, appunto, oggi in aula si parlava di due vittime, Omar Venturelli e Juan Montillo Murúa. Entrambi, Montillo è morto, è stato ucciso poche ore dopo il golpe dell'11 settembre. Lui era il capo delle guardie degli amigos del presidente Allende. Era uno dei pochi sopravvissuti dell'assalto, preso, portato in una caserma lì vicino e insieme ai suoi compagni, ci ha raccontato il professor Berchenko e anche l'altro testimone Burudi. È stato fucilato, dopodiché, scusatemi, la confusione. Sì, no, è stato la confusione con i testimoni, perché di Montillo ha parlato, l'emozione è davvero è stata toccante. Ha parlato Mireia Garcia. Il suo corpo, come quello di Venturelli, del resto non è mai stato trovato, quindi sono due desaparecidos. Omar Venturelli invece è stato ucciso molto probabilmente nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, quindi una ventina di giorni dopo il golpe, e il professor Berchenko è stato uno dei suoi compagni di prigionia, uno degli ultimi a vederlo in vita, per cui ecco, chiederei a lui di parlarci, insomma, di dirci anche brevemente, di riassumere la sua testimonianza di oggi. Vorrei sapere da lui che tipo di significato ha un processo del genere che si tiene a Roma, quindi a decine, migliaia di chilometri da Santiago, insomma, comunque dal Cile. Ecco, se può. Che sentido tiene dar un testimonio sobre la muerte, el asesinato y la desaparición de Omar Venturelli a varios miles de kilómetros del lugar en donde esto ocurrió? Yo creo que para mí esa pregunta en realidad no se plantea en esos términos. Creo que la justicia chilena es una justicia que renunció a su función durante muchos años. Y es para mí una satisfacción enorme saber que aquí en Italia se retoma el caso Venturelli, se examina y al mismo tiempo se realiza al interior de una corte de justicia, pero de una verdadera justicia. Y la posibilidad de estar frente a una corte de justicia, frente a un jurado, frente a un público de jóvenes que estaba allí, para mí constituye una ocasión extraordinaria de poder decir aquello que no pude decir durante mucho tiempo y de poder explicar a el público que había allí, a la corte, al tribunal, lo que allí había ocurrido. Y es ese el sentido que tiene mi presencia en el tribunal de hoy día. Era hacer uso de mi memoria para que la memoria de Omar Venturelli no se pierda en el tiempo. Bueno, yo primero quiero saludar a los jóvenes que están acá, a los jóvenes del Liceo Leonardo da Vinci, que lo han hecho espectacular. O sea, yo siento que estas son las cosas que tienen sentido en la vida. Cuando uno se compromete con valores como la verdad, la justicia, la solidaridad, cuando además se emociona para expresar estos valores, creo que hemos avanzado como humanidad. Y lo que ustedes nos están mostrando hoy día aquí es una expresión de humanidad, de conciencia, de futuro. Porque luchar por la memoria es una lucha de futuro, es resguardarnos para mañana, es que no nos pase lo que le pasó a miles de otros jóvenes, profesionales, obreros, trabajadores, campesinos, artistas, que fueron víctimas de las dictaduras militares en América Latina, que siempre están ahí, al acecho. Las dictaduras no pasan. Mi punto de vista es que las dictaduras no pasan. Las dictaduras se van a sus cuarteles por un rato, pero no pasan. Entonces, que ustedes tengan esa conciencia y puedan transmitir lo que sienten y lo que piensan de la manera que lo hacen, creo que es un logro enorme y vale la pena estar aquí. Y vale la pena haber venido y vale la pena haber testimoniado en el tribunal. Gracias. Sia dell'Associazione dei Familiari dei Desaparecidos Cileni, che è parte civile al processo Condor. Chiederei a Capasita Venturelli adesso di dare un contributo. Allora, cercherò di dirvi le cose che secondo me sono più importanti, perché so che dovete correre a prendere un treno, quindi cerco di essere concisa. In primo luogo, grazie mille, perché davvero è importante, dopo tanta fatica, vedere che davvero non solo c'è una trasmissione che viene studiata e conosciuta, ma anche veramente partecipata. Ci avete veramente comunicato tutto l'impegno, tutto l'affetto, tutta l'empatia che avete messo in questo lavoro, e questa credo che sia veramente la cosa più importante. Perché? Per due motivi. Uno, le persone che si stanno ricostruendo in questi processi sono italiani, e questo bisogna ricordarlo sempre. Quando voi parlerete di nuovo con i vostri genitori, con gli amici, con i conoscenti, con i vicini di casa, dovete essere consapevoli che il percorso che stiamo facendo noi familiari, io come figlia, prima come mia mamma, fino alla sua morte, è stato un percorso che deve essere fatto da dei cittadini italiani, cioè da ognuno di voi, nel caso abbia la sfiga, scusate la parola, di finire in una situazione di conflitto. Non è così strano. Stiamo vedendo per esempio il caso dell'ultimo ragazzo studente che è stato brutalmente torturato ed ucciso in Egitto. In tutti i conflitti finisce che anche qualche straniero ci casca dentro. Allora, ok, che la solidarietà, eccetera, eccetera, ma uno, sappiate che questi sono italiani e che tutto questo lavoro che noi dobbiamo fare, tutta questa fatica, noi in primo luogo la stiamo facendo per dei cittadini italiani. Quindi bisogna riuscire in un qualche modo a far sì che la nostra giustizia sia efficace in primo luogo per noi come cittadini, e questa è una cosa molto importante, perché non è altro, è qui, siamo noi. Cioè, se mi guardate mi riconoscete, i miei erano di origine italiana, eravamo di Modena, ok? Quindi io sono molto sono estremamente sempre ammirata di tutte le persone che non hanno dovuto vivere questa esperienza in prima persona e che riescono a lavorare con noi, ad esserci vicine, perché è durissima, è faticosissima. Quindi io in realtà vi ringrazio molto, però bisogna che questa cosa qui sia molto chiara, ce la dovete avere chiara, perché in primo luogo, fra virgolette, è una necessità egoistica. Non è solo un lavoro che si sta facendo per gli altri. Poi è chiaro che in questo senso c'è una grande spinta, una grande pressione che si può fare affinché anche all'estero queste cose continuino. Cioè, tutto il resto è tutto vero, però non bisogna dimenticare che non ci sono cioè non è così distante, è proprio qui e ora siamo noi. La seconda cosa riguarda appunto gli scomparsi di adesso. Purtroppo a me è una cosa che fa arrabbiare tantissimo tutte le volte che io mi trovo a parlare con i miei vicini di casa, le mamme che portano il cane al parco. Oh, questi qui adesso che arrivano qui, ci mettono un centro di accoglienza qua e ci saranno... Allora, io sono arrivata qui come rifugiata, quindi voi domani gli potrete dire che conoscete una rifugiata. Io sono arrivata qui che avevo 2 anni ed ero terrorista internazionale pericolosa per la nazione. E così stanno arrivando ancora adesso tantissimi bambini. Così arrivano tantissime mamme. Quando noi siamo arrivate qui, siamo state accolte ed eravamo profughe politiche. Eravamo rifugiate, siamo state esiliate. Siamo state esiliate fino all'89. Quindi, quello che dovete in primo luogo far capire a queste persone è che questi sono rifugiati. Cioè, quando si sta in una situazione di guerra, in una situazione di vera guerra, è la prima cosa che si deve cercare di fare è di scappare. Cioè, arrivare in una situazione in cui io mi devo preoccupare di quanto diventerà più brutto il mio quartiere e quindi questi qui non li voglio, quando sappiamo perfettamente quello che sta succedendo. Perché se è successo a questo giovane italiano là in Egitto, significa che succede anche alla popolazione locale. E adesso incominciano finalmente a dirci qualcosina di quello che succede. Quindi, in primo luogo, sì, bisognerebbe riuscire a rimettere le cose un po' a posto, un po' in ordine. In che momento noi siamo diventati così poco, non dico solidali, così proprio umani? Da ritenere problematica l'accoglienza di rifugiati? Lo so che è difficile, lo so che è brutto. Sì, pensiamo che siano cose che non ci riguardano su dei paesi così vicini? Appunto? Poi vabbè, questa è una cosa che appunto penso io personalmente, quindi non è che... Però la voglio condividere perché è importante. Quindi... Salve. Questa era proprio una cosa che vi volevo dire. E l'altra è proprio sulla questione delle guerre e sui popoli che fanno la guerra. Purtroppo anche io penso che sia molto difficile che le dittature spariscano. Purtroppo quando il potere si sente in pericolo reagisce in maniera veramente feroce, feroce. E la povera gente è quella che ne fa le spese. Adesso noi siamo fortunati che in Europa siamo usciti neanche tanto tempo fa da un conflitto in cui effettivamente ne abbiamo fatto molto le spese come popolazione. Questo avviene anche in altri luoghi. Ricordiamoci, quando abbiamo a che fare con queste cose, che c'è una differenza fra il popolo e dei pezzi di governo, dei pezzi di Stato, dei pezzi di potere che effettivamente invece hanno una convenienza nel fare la guerra. Secondo me questa è una cosa che noi dobbiamo tenere presente sempre, perché lì dove ci sarà un conflitto ci saranno delle vittime, sempre, sempre, per forza. E purtroppo sempre di più, perché sempre di più è la popolazione civile che ne fa le spese. Ormai non è, cioè, questa cosa della guerra chirurgica, lo sappiamo benissimo che non è così. Quindi quando pensiamo a questi popoli, quando pensiamo a queste definizioni così vaghe, generiche, ricordiamoci sempre che lì dentro sicuramente ci sono delle vittime. Basta questo. Grazie. Non so se dal pubblico volete fare delle domande. Io chiederei se anche Patrizia Sacco se vuole dare lei un contributo. Lei è responsabile per l'America Latina di Amnesty International, si parla di diritti umani, ci sono dei ragazzi, c'è un'occasione. Io vorrei soltanto ricordare ai ragazzi che Amnesty International ha una forte attività all'interno delle scuole, quindi in qualsiasi momento potete mettervi in contatto con noi e sarete felicissimi. Ci darvi... Ah beh, allora... È un piacere. E poi volevo dire che io sono venuta qui di corsa dal dottor Caporale ne vuole. Beh, però. Devo dire che avere sentito questi ragazzi così, così appassionati, così partecipi a queste vicende che immagino fino a qualche mese fa ignoravano, e, beh, questa è una cosa molto bella. Ci vorrebbe una Susanna Nanni in ogni liceo d'Italia. Ce ne siamo. Ci sono. Io, dopo averli conosciuti oggi, devo dire, non vedo l'ora di poter andare al loro liceo a Maccarese il 22 marzo, ci vediamo, e per parlare il più possibile con voi, per sentire tutte le emozioni che già ho colto nelle parole che avete detto. Prima qualcuno ha chiesto a questo splendido testo di questa mattina che ho sentito il senso di un processo fatto a migliaia di chilometri di distanza dal paese dove quei fatti sono avvenuti così tanti anni fa. La giustizia non ha confini temporali e neanche spaziali, effettivamente. Può arrivare a distanza anche di decenni. Una cosa è il giudizio storico, che credo ci sia già, e l'altro è sentire una condanna, seppure simbolica, perché immagino, come è stato nei processi che ho fatto io, nessuno è venuto in Italia in catene. Abbiamo anche chiesto l'estradizione, ma ci è stata negata. Però a qualcosa servono, a mantenere intanto viva la memoria, che è la cosa più importante, a trasmetterla alle nuove generazioni e a mettere comunque un suggello ufficiale, la giustizia penale, ti ha comunque condannato, ha riconosciuto che sei colpevole di questi crimini. E questo è il senso dei crimini contro l'umanità, che rende questi fatti non di un popolo, di una nazione, di un continente, ma di tutta l'umanità. E questo è il senso di crimini contro l'umanità di cui stiamo parlando. Bueno, todos ustedes saben que vinimos a declarar en el proceso por los ciudadanos ítalo-chilenos detenidos desaparecidos. Este ha sido un proceso largo. Más largo han sido los procesos en Chile. Llevamos 42 años tratando de lograr justicia. Pero eso también ha sido largo. Lleva más de 15 años. Y quiero señalar esto porque hay que comprender que cuando la justicia intenta actuar en contra de los poderosos, normalmente las dificultades con las que se encuentra son tantas que la verdad es que puede pasar, se puede pasar la vida y se pueden pasar generaciones sin que lleguemos a los resultados que esperamos. O porque no se dice la verdad, porque se miente, porque se omite, porque se oculta, porque los jueces también son cómplices, porque los medios de comunicación favorecen a los criminales y no a las víctimas. Hay tantos elementos que contribuyen a que existan procesos que se eternizan y que finalmente nunca llegan a lo que nosotros creemos es lo más sano para una sociedad. Un crimen se castiga con una sanción penal. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra lucha. Para eso hemos trabajado, para eso hacemos conciencia, para eso tratamos de sensibilizar incluso a nuestros tribunales, que durante muchos años fueron muy indiferentes. El símbolo de la justicia tiene una venda en los ojos. Es exactamente eso lo que nosotros hemos vivido, exactamente eso. Y finalmente, cuando se busca justicia, por crímenes contra la humanidad, se está buscando justicia para la humanidad, para las víctimas, para sus familiares, para la sociedad, para las sociedades. Y esa trascendencia es lo que permite que hoy día estemos conversando aquí, y yo me voy a ir muy emocionada. De verdad me voy emocionada con ustedes, porque creo que esto, lo que ha pasado hoy día aquí, le da sentido a esta lucha, le da fuerza, le da valor. Y si uno en algún momento se siente un poco desanimada, cansada, hastiada de muchas cosas, bueno, esto da fuerza para seguir adelante. Así que yo quiero agradecerles a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por sus palabras, gracias por la profesora que tienen, que los ha motivado ahí con mucha fuerza. Y ojalá podamos seguir juntos en esta senda por recuperar la memoria. ¿Por qué no? Gracias, chicos. Yo quisiera hacer una reflexión sobre el término memoria, la memoria. En realidad, en nuestro país, en Chile, nos hemos encontrado, como en otros casos, con el hecho de que no existe una memoria, sino que hay memorias, varias memorias. Y que en el momento en que los militares vuelven a instalarse en sus cuarteles, y tal como tú decías, esperar el próximo golpe, ellos también han elaborado una memoria. Y por lo tanto, después del retiro de esos militares a sus cuarteles, se produce una lucha de memorias. Hay un conflicto de memorias. Y es muy importante saberlo, que cuando hablamos de memoria de las víctimas, al frente está la memoria de los victimarios, de aquellos que cometieron los crímenes. Y por lo tanto, el hecho de que ustedes recuperen la memoria de las víctimas es de una importancia enorme, porque ustedes recuperan la memoria de aquellos que durante la dictadura no pudieron expresarla, no pudieron mantenerla. Y es solo el dolor que sintieron lo que hoy día nos llega a nosotros y que nos permite reconstruir aquellas voces que no tuvieron la posibilidad de expresarse en ese momento. Por eso el poema de Neruda que tú has citado es perfectamente pertinente. Y yo te sigo en ese poema. Muchas gracias. Ringrazio, terminerei con queste parole, e ringrazio particolarmente i ragazzi assolutamente per questa serata. Buonasera a tutti e grazie.